nella terra più corta. Non vale la pena amargarti, solo valore una cosa. Buena, la vida sí está buena, la vida está bien buena, la vida sí. Real de tu vida.